che sei in saturazione, bello bene, che ti fai in saturazione, è per quello che serve l'RFG e l'attenuatore. A quanto ti serve? Ma praticamente poi devo ascoltare l'altro che c'ha il segnale più basso e devo aprire le refigin. A te per dire ti devo chiudere tutto per ascoltarti con la voce intera. Se lo lascio aperto tu trasmettendo col Kingwood, ti sento tutto spezzettato, tutto spezzettato in banda laterale. Perché? Con quel preview. Perché manda in saturazione lo stadio finale, se uno è vicino. Quindi è una cosa normale, lo fa anche negli altri apparecchi. Sono vicino, sì. Beh, almeno vicino, a te non lo fa. Tu ti ascolto, no, ma anche comunque in propagazione. Tipo cazzioni, buon padre a manettone. Li devo attenuare, se no li sento tutta la voce spezzettata, in banda laterale. Ma senti, non si chiede che pompa, Harry. Tipo, così. Tutto a tratti, scoppiettante la voce. Ho capito. Quindi se mi dai è meglio. Ma è previsto anche l'allineamento in recessione. Se ci possiamo mettere mano è meglio pure. Siete sotto pompa. Io non lo sento perché. L'ho provato solo in trasmissione, allineamento, eliminazione furie, messa in esonda in banda laterale. Ma è ricezione, tutti di quello non me l'avevi parlato, a meno che me ne sia, lei c'è anche per sentirmi male, però io ho un puntato a quella tavola lì, stato parlando da citofono, effettivamente si sente un po' la voce citofonica, però addirittura infatti la pompa in banda laterale, lì allora c'è qualche problema della GC, automatico di guadagno. Tutto, guarda, tu prova a accenderlo a fianco, ti metti mic, levi male il processore o abbassi il machine, tanto in banda laterale non ce n'è bisogno, e vedi come ascolti la ricezione. Non capisci una mazza, tutto a tratti, con segnali furti, per dire se il segnale invece che ti arriva a 920 in AM, allora basta che lo attenui appena appena, poco e basta, invece a te se non chiudo tutte le refini non riesco a capire una parola di quello che dici. Quindi cosa succede? Siamo in quasero, io, tu e Natalino, a te ti devono chiudere tutto per ascoltarti con le refini, a loro devono riaprire più di metà, un casino, e non penso che sia una cosa normale, bro. Ma anche il mio passa a via, poi la segnala di furti, non si capisce niente, partiamo bene, non so perché, bro. Farri, allora, di capire che non è una molta dinamica questi apparati lì, per dinamica allora si intende, se portare in entrata segnali che possono andare da 0 a un tot. Allora, per esempio un input o un apparato serio posso portare dentro 120 dB di dinamica, cioè senza nessun problema posso ascoltare segnali da 0 a 120. Così se no hanno una dinamica di 40 dB, la dinamica è quella porzione dove può essere usato l'apparato. Quindi potrò ascoltare segnali da 1 a 40, dopodiché va in saturazione al CC, controllato automatico di guadagno. E lì dovrai semplicemente usare c'è un cavolo a fare con è per quello che esiste la dinamica. Ecco, ma è una cosa un po' fastidiosa, però siamo in quasero, tutti i segnali sono diversi, per dire a te, a Claudio, a un sacco di altre, anche a Franco, a Maripun, no, non vi ascolto, devo chiudere tutte le refini, se no non riesco a capire una parola, e a volte anche con tutte le refini chiuso, è lo stesso ancora un po' tratteggiata, è una cosa allucinante. Sì, non hanno dinamica, dai, io pensavo che fosse un difetto, no, quella è semplicemente la dinamica del ricevitore, oltre che quello non fa andare, 40 dB sono anche molti, io per un apparato normale sono da PM, non fa bene che per esempio un normale smocchino do vecchio a 102, 105 dB di dinamica vecchio, i nuovi hanno 120 dB, non fa bene. Perché se tu un tempo dove vai in banda laterale li ascolti chiari chiari, perfetto, senza attenuare né nulla. Io è un casino, ogni volta non ci riesco a... Chiudo tutto a te, non sento più Natalino, devo riaprire, è un casino. A Claudio lo stesso, anche se chiudo, non lo sento bene perché è troppo vicino. Lo sento tutto capito a scarica, però il mio apparecchio che non riesce a percepire, a scandire, a sentire tutte le parole per intero, perché sicuramente manda in protezione la parte della ricezione audio. La dici, quanto la trovate non rimane. Nella metà limitata, perché deve essere limitata, non è che devi prendere molti segnaloni in barra mobile, logicamente. Io a volte, addirittura anche con 105 dB di dinamica, certe mazzate le prendo, se ce ne vuole. Sono fatte invece l'ultima parte si arriva a 120 dB. Senti, ascolti bene, segnali uno come uno per più 120, una cosa abominevole. Mi ha mandato gli 88 Giuseppini da Jerez della frontiera, Cavagara, e anche quello del Portogallo mi ha mandato la QSL 2, ne ho ricevuto stamattina, cara. Allora, tutto il giorno sono stati dicendo, attaccato anche i volantini in via Pascoli alla Cisa. Sono soddisfazione. E quando una donna di più anche per quello. Si chiama Giuseppe. Ha tagliato la antenna. Perché senza antenna c'è? Allora, attacchiamo l'antenna. Senza macchina o senza antenna? A voi dico già a me. ne ha uno di ricordo cazzo di mi è gugnata ma di sicurosa uguale a quello là anche il cimitrizzatore c'è piazza ma facciamo uno di questi sabati mettiamo tipo un attimino di saldo con questo di staffetta li metto l'antenna bella massa un attimino sotto la mattoma la 27 magnum della LEM K e poi il dipolo la notte la divertita chi su di tu non lo so del po' vedi un po' lo piazziamo verso in direzione del mare dai e a notte vuole piazzare probabilmente se ci piace spaventare quello di una lusa e allora quello di Paolo ancora ci togliere quello di Paolo adesso in casa capo ma così efficace e lontananza capito la propagazione di buoni 50 watt ormai che ce n'è e poi è più silenzioso ha in ricezione capito ma la mente è abbastanza ricevi troppo casino va bene per i 10 capito capo dai. No, in realtà tutti e due, diciamo due fili assieme fissati a fascette, due resi 58 li faccio calare, me lo compro, uno ce l'ho, l'altro lo compro, e calo due cavi resi 58, e io ho tre antenne, capa. Tanto devo prendere l'accordatore, in realtà lì, l'ultima spesa che devo fare, devo prendere l'accordatore, assumo l'ordine, e non c'è problema, accordiamo tutto e deviatore di antenna. Ecco, aspetta un attimo, che metto le cose, il carico fittizio a vedere se mi senti. Anche a me, una volta mi hanno sentito lo carico fittizio. Vabbè, c'ho la... il QRM ce l'ho a due, prova a vedere. Aspetta che metto il carico fittizio. Se tagli le bugie, non attaccare anche il mio, cose varie, metti il carico fittizio. Radio 1. Sì, ti sento, non è la QRM, Radio 1. Mi dà un attimo la stazionale è zero, ero senza antenna, con carico fittizio, ma va bene la carico fittizio veramente, mi dicevo mi sta arrivando. Ma dove ce l'hai piazzato? Dentro casa? Dentro... Adriano, sei tu? No, bene. Perché non vuole entrare? Fittizio, Adriano, l'ho messo adesso mi ascolto. Andiamo avanti dai, ci qualcosa. No, c'è un portante, non è morire. Provando, ma dove che invece no? Deve fare ripping. Lo pare, con il supercar non lo fa. Invece con tutti i tempi l'ho fatto, invece stai modulando tu, tipo l'ho fatto bianco, se lo provavano tutti e due. E cosa ha fatto? Il supercar niente, tranquillo, liscio liscio, dinamica superiore, di quella robetta. E calma, dai. Sai il lugar che cade a prese portate, sai mi dà scicchi che siamo a telefonia, ok? Cosa usare così? Mi guduio, sempre, che mi dà giù terra, giovane. da vitto, non ce ne sono problemi. Non mi fa ascoltare qualcuno, il più piccolo, va. Le voci, le modulazioni sotto le sento lo stesso. È inutile attaccare il microfono e mettere una portante sotto il microfono, perché non ce la scappare, capa. Se la sento per sentire uno, lo carico fittizio. Uia, uia. Poi quando scoppo il portante, va giù un peso. Ha fatto di dove fa parente, romantica, mamma mia. È vero. Vabbè, te ne fate il basso in sombra. Vabbè, ha fatto la prova, ha fatto la prova di mezza e si è ritirato. No, c'è sempre oggi, sì. Ehi, lasciamo ascoltare, se vuole andare a parlare può anche entrare, non c'è problema. Non so cosa dire, è allucinante. La gente hanno come funziona l'Iris, che sono capi a cagare. Per carità. Tu conta che sento proprio Adriano di pelo. Tu fatti solo conto, un di buona sì. E gli amici tuoi sono salve. Vabbè, mi prendete un attimo Adriano, ci arrivo subito. A me pare, non passi bassi, anche 9.30. 25 che ne sono proprio fatti i mobili, però non ti stai disturbando, perché c'è anche Martino di qua che sta disturbando, che ci mette la portante, qua siamo ritornando per la medioevo, negli anni 80, che schifo. Allora, magari c'è qualcuno in zona che è in ricezione, la volta da parte, ma ci dimmi di fare così, facciamo la prova a tagliare quando stava arrivando. Mi fate il tuo yoga, capito? Cosa vuoi dire, Galia? Però sono subito già lì. Io sono il terrestre, mi fate togliere quello piccolino, il teatro telegrafico per fare proprio all'altra sollecitazione qua. Gaba gaba. Fermate. Ah, ma c'è la scrivania tua. Gli abiti quelli così che ci sono sotto, track e stringi i piedi. Gli metti un pezzo di incerata. Ma già piazzata perché l'ho messo per fare un tavolino per lavorare, capito? Per fare lavori, non ho messo la luce, due lampadine mi ho messo, che non vedevo manco a tirare l'ultima balla stamattina. E tu ci sono spostati guarda altro canale, sapevo la portante muta a fare un battimento. Non ascoltavo col pelo. Sapevo la portante muta, senza microfono, staccato, cappa. Invece la gente mi fa venire all'aria, no? Che blu blu. Ma come te la sta mettendo? Eh? Così te la sta mettendo? Tu sei bello pompato, ora ti ascolto forte, dritto dritto al cuore, natalino. Ah, invece, dritto di essere bello pompato, abbasciati oggi, non si completa la mazza. Vediamo un po', si capisce adesso. Era un po' bello pompato, era, già va bene anche così. Ok, si conferma. Non lo sai che mi ha sentito qualche conflitto di Salvini? Ascoltate, prova a vedere, io no, prova, manda. Allora, il segnale è come il QRM2, QRM2, arriva il segnale 2, radio 1. Proprio ho sentito la voce, Salvera, mi senti col carico fittizio? Senti se lo sento, mi va. Però basta, cazzo, col carico fittizio non posso andare così. Aspetta. Vai, va. Leva tracker. Mi sentivi? No, parla, prova. Ah, attento sono video, segnale 3, radio 1. Ah, fa tutto per la gnotta. S5. Io ho l'antenna catorcata, però ascolto tutto. S5. Ma mira per volgare capricchizio, ma mi segna... le stazionarie zero, Un attimo, vengo subito, E io sarà che non è caricato, però, perché un carico fittizio, in teoria non dovrebbe in teoria non dovrebbe essere. Chissà quanto ci hanno caricato sopra, S5 di qua. Ehi, a poco fa non mi ha sentito perché mi era abbassato troppo, poi ho caricato qualcosina e gli ho detto, salve, via, mi senti? E se non metto 2,75 di filo nella cosa, nella wire? Ma sì, tutti hanno rincorso, era un po' più sempre, sempre lui si via a attaccarsi, guarda un po', ritorniamo sempre ai fili. Ma a me i fili piacciono. Sì, se c'è notte per me, torniamo sempre ai fili, tanto hanno le mie soddisfazioni. E allora a me piace andare in quel RP, no? Casa pompa, perché devo pompare, cazzo, il mio buono è. Qua, quando ti mettono la portante ti rompere male perché devi avanzare. E là, te lo ricordi quando uscivamo con 100 mm e ci scoltevamo lo stesso, Adriano? Ma visto che quel RM0 possiamo fare anche adesso. Ehi, cazzo, metti io, ma su di tua, di nuovo. Il ramo. No. ovviamente non è usato la parte propaganda, si è spaventato quando lo cazzo, complimenti per il volo. No, vedete, c'avevo anche la nota da turba, no? Solo che per 10 usavo il dipolo, no? Comunque, se non possiamo fare solo quando c'è preparazione, che se per fare la preparazione non è che si sì, non ti crede, no? Cazzo, ma devi con questo segnale, no? Ti credere che ti perdono. E se la propagazione arriva più forte, che mi pare impossibile arrivi più forte di vera propagazione, allora sì, chi ti pesce? Se una cosa del genere vuole che mi sente, come no? No, che se arrivi a nove quando parli, quasi nove arrivi. Diciamo, vista io come l'antenna, ma che c'è da ridere, cazzo, però intanto arrivi lo stesso. Certo, se mettete la manta, va la cartone cambiata. E come cambiava? Come cambiava? Ho già provato. Dopo correre, sono molto per il posto non si deve ricordare, mi ci ho cambiato. La per una non si salute. Michele, che cazzo, quando c'era la delta loop, lui i due elementi, te lo ricordi che faceva via? Era qua. E la verticale purtroppo è rumorosa, ci sa. Io vedi, me la potrei fare una delta loop, due elementi così. Cazzo, quella dovrebbe essere spaventevole. Sì, io ci devo lasciare bloccato. No, non penso. Lo sta mangiando, è andato a cacinare la dispensa. Quello sta mangiando. È arrivata la 25, sta cenando. Se tu fai cena, cioè cena tra di lui, lo fa. Adesso mi dice a me, le 10 e 10, non so. Deve stare al caldo lì, scarso, acciugata, devi fare sorti, sorti non ne posso fare io. Non è tanto semplice come lavoro quello. Nell'ambito, intendevo io, nell'ambito, non essere interessato direttamente, nell'ambito. Già lo so. Capito, già lo so. Non potrei fare neanche questo il lavoro, mi piace, perché come se travaglio è interessante. Però lo faccio lo stesso. Che mi prendano qui, lo faccio ugualmente. Se vedi cosa mi hanno scritto a San Camillo di Sardegna. Io attimo un attimino il telefono per farlo capire un attimo. Sì. Lunga già. Allora, Sagnos. Oh. Cappa. Sì, ancora sì. E risponde sì, sì. Il mio. Sono in tre. Lo so che sei in tre. Sto ascoltando la S0, non è cavolo si chiama. Sì, S0 mi prende più chiaro. E questa R1. Scrivere sulla cartolina già fatta. diciamo, la fattoria già fatta non è più stampabile, mi dispiace, perché c'è la protezione e l'inchiostro non si attacca solo. Sull'altro sì, ma la valli no. Come volevo dimostrare? Io ero lucido. Come se tu volessi scrivere sulla fattoria delle mie, non ci dici? Infatti. Praticamente l'hai stampata due volte quella lì, così. Perché l'hai stampata due volte? No, quella è una foto in unica sessione. Una foto, perché in appoggio tutto un blocco. Ma c'è cioè la fare per inserirla la fotografia nella cartolina? Sì, yes, certo. E bisogna che la guardi, com'è? Così ci metto qualche cosa. Diciamo che così come è fatto il software, si ha un'antenna, poi non mi ricordo cos'era, però poi c'è l'altra scelta di come ci vuole foto. Ebbene, infatti, forse perché in inglese non ci ho fatto caso. Parlo col culo sovetto, che non è uscito bene con la bocca. Aiutava bravo. Che spannacchia. Che spannacchia la fare. Ma cosa mi giochi, io no? Non ho guardato manco il segnale, ho sentito solo il rumore perché sto scrivendo e quindi non stavo pensando allo sniffer. Luca, cosa ti dici? Sono per qua, sono lui, a quando è il 3, alle 4, oh via. Il 3, alle 4, ma c'è il 3, alle 4? Io dormo di giorno, di notte. Ah, figlio di me, figlio. Che mi trovi? Che sei alle 2:30, 3, non si può vedere manco. Poi io se tu serve. Ascolta, Maria, devo dire, c'è un'idea che non fumo. Sono qua, il mio non avrei fumato, guarda. Minimo due, ma che deve essere sigaretta al giorno. Questo avete messo un solo, blocco cronica, un pochetto di cancro. A un certo punto a me è passato da rifumare, però 2:30, 3, c'è uno che ci parla, perché non c'è quello che c'è la televisione. E chi sogna? Sì, strano. La mattina, 7:30, 12 barrati, bastano quelle 3-4 ore di sonno. Dai, io dormo, non è che non so. Come mi faccio un'oretta con un omaggio? Con un omaggio mi sdraio, mi fa sempre vicino alla scomoda a fumo. Ah, allora tu sei come trivicida, ti viene la pioppo da quel magnato, sì, no? Va bene. L'omaggio logicamente lo stomaco perché energie e viene la biocco a Taraus lui ecco vedi il foto con la reccia e c'è uno lì stava annunciando le cazzeggiate faccio il mostro di non puntare e sei la bella mitra che arriva questa che ti diviso in radio. Maledetta. La roba di questo letto che c'ha questa qui. Diviso. Grazie a Sfarel QSO e spero copiarti pronto. 73-51-88. Per te e la tua famiglia. Io definito. Quattro me ne hanno mandato queste, di tutte le International DX Group Radio Spine, Mike Charlie Tango. Seguo io. Saludos. Sì, ma non ti sono frontale se spagnolo. Uno vale per tutti, eh? Ehi, non rispondo solo lì perché donna, poi c'è il portogallo qua. C'è il portogallo. Poi cos'è? Catanisetta, quel radiamatore, e Ragusa. E poi c'è quella là. Già devono arrivare. Gli dico, non so che contamina poi sede spagnoli. Già due sono troppe. Tutti il Portogallo è in Spagna, però non è Spagna. E qui vai oltre, fino a Uia, fanno fare tutta l'Europa e tutto il mondo. Altro, sto cominciando quest'anno, cavolo, a fare queste. Erano anni che non ne facevo più. Anzi, ma lo so quando ti ne ho collegato, di gente non lo fa. Perché sono quelli che me la chiedono, gliela do, capito? Come contatto lo stai disperando, quello là? Relativo. Sì, contatto là. Cosa posso sapere le coordinate? Ma l'email che dice? Sì, che sto usando l'email. No, non è stato usato. Però ce l'ho, quel contatto lì con il mio nominativo. Email tutto il tipo. Le tue coordinate pelo pelo di abitazione che c'è eccetera. No, negativo. Loro, cioè me le dicono loro le coordinate, io gli mando la QSL. Capito? Io non ne ho fatto nessuno. Anche se mi hanno detto che a parte che non fa nulla. Ah, non so più. Perché tu aspetti tu rispondi, va, quindi il TMX. E il piede è un grande, va bene lo stesso, è un po' più lunga però funziona uguale, diciamo che è più sicura perché non sei sicuro che ti arriva, perché è mix, lo usando. No, io e loro mi danno le loro coordinate, io gli mando la QSL e poi mi arriva la loro. Aspetti che ti arrivi la QSL e rispondi tutto questo. Ergo circa, dipende dalla velocità, una decina di giorni. Sì, però io siccome non le do a nessuno le mie coordinate, gliela spedisco prima io la QSL. Solo a quelli che me la chiedono però. Sì, logicamente, se ti sia a caso di cane che sia a imbroglio. Sì, quelli la prima cosa loro sono le loro coordinate in modo che tu sappi dove spedire. Molte volte però naturalmente c'è la posizione perché tu spedisci però non è detto che ti arrivi. Quello sì, è possibile. Però io già lo scrivo sul libro nero se non arriva. Manco la morte lo cancello e se non risento in frequenza gli faccio lo scandalo. Come è successo a qualcuno che non ha mandato la QSL e gli hanno fatto lo scandalo, tipo da me. Ma è credo ma c'è uno di Belluno che stava lamentando che non era arrivata con la QSL per tutta la settimana. Siamo via mille, sono quelle del posto, volevi un QSL che arrivava in tempo reale, dopo quella situazione è arrivata, normalissimi, 7 giorni in Italia. Ragusa per esempio, uno mi è arrivata e una no, di quei due radiamatori, guardi. per fare per esempio un tipico esempio, per esempio, per letto, per esempio l'Estonia, perdono nell'est, poi andando al nord, Gran Bretagna, Irlanda, Scozia, eccetera, eccetera, quattro giorni. In Italia è sul letto, se vai verso fuori è più veloce. Scusate, un po' poco fa, Cos'è frustrato, si stavano gasando per cose con la mano in più. No, lo gas sta saltando sopra la luce. Evidentemente c'è troppo sovraccarico, guarda che i nuovi contrattori non ne hanno tolleranza. Si superi, scatta. No, secondo me c'è qualche problema nell'impianto. Insomma, 40 anni in attacco. E ci sarà anche distorsione, evidentemente. Scappa. C'è qualche cosa in cucina, perché adesso sta saltando troppe volte. Addirittura ero qua in cameretta e ho visto delle scintille nell'andito. Secondo me sono uscito dal salvavita. E tu non l'hai controllato? Ho visto delle luci, io ero qua in cameretta, ho la luce spenta, e ho visto riflettere nel muro, ho visto delle luci, quindi come è saltato sono visto nell'andito, vicino alla porta d'ingresso, ha illuminato, capito? Andiamo a guardare. Secondo me ti conviene armarti di molla e rifarti tutto l'impianto, se c'è 40 anni, cazzo, glielo rifai da capo, nuovo. Sì, no, ma è sicuramente abbastanza farò così. Bisogna vedere se quel corrugato e frasico riesco a far scorrere la... No, vabbè, ma posso anche aggrapparli direttamente ai fili vecchi. E come tiro entrano nuovi, là. A volte serve la sonda. Attacchi i capi nuovi, tre, non due. Quelli vecchi, tiri e te ne vanno presso. Di lì potevo fare così, ma negli altri posti non dovevo fare così, no? Cioè, qua in cameretta che non c'erano cavi, c'era solo il corrugato, dovevo per forza passare la sonda. Ma quello te l'hai già fatto, però. Scusa, ma quello di cameretta se l'ha già fatto a nuovo l'impianto. E te l'ho capito, l'ho fatto nella zona sovravvita. Stavo dicendo. Sì, infatti, il biglietto avrebbe già fatto tutti, chissà come ti piace fatto, da 40 anni fa. Cioè da 40 anni fa riconvene a entrare i nuovi, tanto mi rilega i fili vecchi e tira. Uno glielo spinge, no? Bisogna essere in due, non farlo da solo. Infatti tu lì, vai, ce lo stai, Vabbè, ce lo stai. Da spostare sui capi nuovi, da spostare perché le vengono anche da sole addirittura, comunque mi piace le due. No, faccio in due, c'ho problemi. Che bella specie di polvere, si diventa una specie di polvere al calcolo. Ho fatto tutta questa camera qua, tutta norma, e poi sono nell'espandendo ho potuto andare la salvia, dato che c'ero. Perché elimini un sacco di dispersioni, piace anche di meno la luce. Ma infatti qua ci sono giri e raggiri, ci sono cose che non è fatta a giro la casa, capito? Chiusura, capito? Fare partire da una parte e arrivare di nuovo, è fatta stavolta così, almeno appunto. Capito, c'è troppa dispersione. Non è che va da una stanza all'altra, fa tutto il giro della casa e va a chiudere, no? No, è tutto quanto... Cerca chiusa quando si è addobbato l'impianto. Sì, ma c'è ancora quel traffico, andato a cartino, è una cosa normale, anche io c'è una mattina qua, poi la dispersione, scopi e cacchi vari, tutto la caterra e via, tutto nuovo. Tutto a capo, con fatto di paletto che si mette a terra, affogato nella terra e un appietto ogni 7 giorni, una toccante manica. C'era una distrazione allucinante, c'era 5 watt di distrazione sul muro, perché la piattina, anche l'altra c'era. 5 watt tutto di la scemenza, però consumava. Sarebbe la piattina? Era la piattina che si usava anticamente. Quella bianca che si inchiodava sui muri. Ma che funzionava questa piattina? Perché qua la piattina non ha più il fluido. Allora è così messo male il piatto, no? È la pratica che si usava, è di neutro padre portavano nelle case fiche di 80 anni fa, piattina anche da casa sul muro. Ma dove deve essere questa piattina? Era, non dove deve essere, dove era, in che era sul muro. Non è vero qua, non ce n'è qualcosa che volta sul muro, come dici tu. Che mi usi? Che sto dicendo che l'ho trovato io. Che l'ho trovato io e cosa ho eliminato. Mi dà conoscenza di una piattina. Ma comunque c'è molto di decisione il cabine rame di 40 anni fa. Col filo di rame unico. Rigido. Dove? Dentro i cavi sono il rame di ghiddo rigido. Capito, che non è a treccia, è un filo unico. Ah, peggio pure. Nel 1900, nel 1900, non avrei mai fatto la distribuzione elettrica, cazzate. Steso così, ne devo dare il capo lì, non è a treccia. No, perché la piattina è venuta dopo, negli anni 60, anni 50, anni 60, che è quella proprio sì. Vabbè. In alcune stanze c'è ancora quello lì, qualcuno l'abbiamo passato e adesso lo riprendiamo tutto, ma va bene, oggi è saltata 15 volte la luce. Ascolta, andiamo, ma non stai lavorando tutti i giorni? Perché? Cosa serve? Oh, se ti avvicinavi domani. Io veramente non mi ricordo dove cavolo la pizzeria, sinceramente. Tanto devi fare le scale, da Via Sorso al numero 31. E vieni all'ora che vuoi, guarda tu il cognome con la S e sei a posto. Quarto campanello, d'acqua, o terzo o quarto, quarto campanello comunque, due cognomi con la S, non sbagli, allora che vuoi, vieni, io sono qua, non c'è problema. Ah, perché se sono sempre anche da punti, rimane, ci faccio una carta mia, se mai verso mezzogiorno, il turbo. Come non ti ho capito, come rientri da Chiaramonti? Sì, di che? Capo. Sì, come diciamo, non so mezzo giorno, disturbo, no? Sì. No, negativo, non disturbo, non cane 8, figurati. Allora che vuoi, sì, non c'ho problemi. E mi serve andare da Guarda di Amatore a Chiaramonti? No, però bene. Per fatta la fuori che va la televisione, magari di Amatore. Ah, capo, perché sei un tecnico così a Chiaramonti? Che c'ha che era un attore. Quello c'è nessuno, io non mi ha fatto più niente. No, aspetta, trepa la buriche. Hanno fatto lui stamane, col corriere, ma si sono fatto stamane. E già te due ha chiesto domani mattina. Mi ha sorpreso. E lì c'era presto la vicina. Come sono trovato a sapere che ho finito da solare una micidiale. È altino di lì, si sta bene a Chiaramonti, già c'è tirato il freschino, trappa là, adesso va a far dormire Aimen e Gilda che domani mattina ci svegliare alle 6. Devo finire di sapere. Sono costretto a salutarvi. Certo. C'è la contessa, mi ha detto che schiaffi, e dove questi schiaffi? Sì, anche lì c'è ragione, là. Salutiamo anche lì. Ciao, ti aspetto domani Adria. Ciao Natalia, ci sentiamo domani. Buon proseguo di qua sera. Ciao, ciao. Vabbè. Accendi una mattina alle 6:30 Natalia. Sì, Mi si dice che accendi, io accendo. Ma che tu mi stai girando dall'altra parte, la CM da là. Eccetera, aiuto, vediamo se accende la CM. Recette ti chiamo, mentre mi sto facendo la caffè, la recette ti chiamo, va? Va bene, va bene, io me ne dico la pizza, vai. E mi dico la pizza, ci siamo nel letto, papà. Non puoi essere andato, non ho pensato dove ci venivi con me, che era molto felice, un po' di fresco, che sarà un soccorso festivale. E vedi, me lo potevi dire, andrò a cena, ragazzi. E non ci ho pensato, ma non lo so, sai, c'è del cacchissimo da fare. Ma un fresco, poi quanto stava bene. Ma ti ricordi, Alia, da chi sei andata a Chiaramonti? Come? Le conosco a tutti, persona singola, persona singola, chiaramente. No, aspetta, allora, molti lo conosco, soprattutto la cooperativa e Chiaramonti. E poi le figlie, i figli, insomma, sono 101 abitanti, non è che c'è poco da... E non è che di speciale la sai? Sì, non sono 101, lascia perdere, che sono un po' di più. Sono qualche migliaio. Allora ci hanno la Fumera, tu, da Armando Fumera, famiglia, De Nanni. Ah, perché io non frequento i Chiaramonti, io faccio solo manutenzione, conosco la cooperativa di Chiaramonti e basta. Io perché questa famiglia qua che ha problemi e adesso se lo metto con la parabola dove si risponde. Televisione non si riceve, ci vogliono telefoniche e anche non i micidiali per registrare il terreno. Dopo invece l'ho assistita per 15-20 anni, la cooperativa Chiaramonti. Ma se ne sono una società cooperativa di cosa? Che producono formaggi? Allora, ce ne sono due, quella associazione dei formaggi e la cooperativa che produce olio, che produce olio d'oliva. No, non è proprio olio, non so chi sia, vabbè. Ma anche le poste, no, quello è sempre latte, cose di latte, da latticini. Ma guarda, sono visto il paese che è un francobollo. 20 metri dopo salendo, dopo 20 metri dopo la cooperativa dei formaggi c'è la cooperativa degli olivicoltori. Altre conoscenze sinceramente non ne ho, non c'è la morte. Scappala. Ok, vi saluto, buon proseguo di nuovo, eh? Ok, ciao Saverio. Immagine, so che sia, mettiamo. questo è un po' perché su quel fatto con questi programmi, eh? Bitmap. Tutto l'elenco dove trovare il bitmap che da mettere sotto. Come vedete ne sono pochissimi. Però se tu lo aggiungi con la cartella, poi gli dai l'indirizzo del bitmap che poi aggiungere nel fondo e carica quello, che verrà fatto. Questo è il lato di bitmap size, perché non era una bitmap. Bitmap non la carica. Bisogna procurare qualche immagine di bitmap. Se butti su internet dici di Sardegna appunto bitmap e ne hai approfondato. Infatti farò un carico di là e via. Infatti farò un vedo qualche paesaggio, qualche cosa di anco. Vabbè, se devi chiudere ti lascio lì, se no non c'è problema. No, sono qua. Faccio 15 minuti, non 5 minuti. E non devo sempre portare l'immagine alla Sardegna. Ho fatto l'immagine di un personale. Ma parte che il formato sia abituato. Infatti mi adesso provo qua. Cosa ne posso dire? Sardegna appunto bitmap e tu. Ma cos'è altrui? È questo altrui. Ma bit o bit? Bravo, Michael Pirla, BMP. Immagine Sardegna, e poi ti riconverti in bitmap, sono lì come ti sente. Lì ti dice Napolina in bocca, preferisco la Sardegna, che non hai mai visto. Noi l'abbiamo visto, però non ci siamo accorti, ci siamo accorti così belli. No, io già l'ho visto, abbiamo lasciato. Perché poco ci porta a fare la sì, l'ho visto anch'io girondolando, però... le foto non ho mai fatto, le vite di persona, però non ho pochi ricordi. Guarda, ma di quello che ti piace di più, sono a Salvi. Pare che Salvi per accoglierti in vite mappe. Sono migliaia, eh. E mia, c'è il bomba. Possibilmente attenente al Nord Sardegna, non puoi... la Pelosa, no vabbè la Pelosa è già attinente, ma non mettere sullo Sardegna a calci bagno, se non cacchio da fare. Maldive, non Sardegna, che bello. Per la vedere le tenere con luci di fuori, ehi, che figone. Alzate, guardate le telefono. Fa bene che ne è uscita una carra, niente ronco. Ma adesso guardando lì, era manco era che cosa gli piacevole. Però per te non fa ancora niente. Vai nell'archivio fotografico invece, di Paolo Sanna. Quello è dove la tengo io, l'archivio fotografico di Paolo Sanna. Che dovrebbe essere secondo... sì, secondo risultato su Google. www.fotodisardegna.it Ma è di cuore, ma va a guarda. Ma dove? Ma quelli di Palossana? No. Ah. Qual è il tuo sito di Palossana? www.fotodisardegna.it Che il mio informatico di Civareggi. Il più grande archivio fotografico della Sardegna nel web, questo. Che c'è l'indice tematico? www.fotodisardegna.it Eccolo qua, Paolo Sanna. Ok. C'è l'indice tematico, archeologia, artigianale, etnografia, fauna, flora, gastronomia, mare e spiagge, monumenti e varie. Qui chi di essi si apre tutto il mondo? Ma non c'è lo stai? Sì, già. Ok, allora credere che sarebbe stata la Marina, può essere anche una cosa che riguardi la fauna, la flora, o la chiamata archeologia, etnografia. Faccio lì. Sai che però ti siamo più adeguato. Ci sentiamo alla prossima. Ciao Natalino, io sto scrivendo. Volevo un'altra informazione, scusa. Volevo sapere come fare a convertirla in BMT. Se sei un normalissimo programma di conversione? No. Ah, vabbè. Allora tu scarica, però su quella ti prendi di più. Poi domani ti dico come fare la conversione. Sarai accontentato. Ok, ciao. Ciao, buonanotte.